Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento e sono in compagnia dello sposo. Esatto. Come si chiama lo sposo? Fabrizio. Fabrizio, possiamo dire anche la sposa, giusto? No. Perché è travestita, sta ancora decidendo. Sta decidendo, sì, sì. Difficile. E ci sono amici, sì, giusto? Amici. Come si chiamano? Andrea. Raffaello. Perfetto, Andrea e Raffaello. Ma chi ha deciso il costume della sposa? Quello lì fuori. Quello lì fuori. Il matto lì fuori. Quello lì che sta facendo le foto lì fuori, Marco. Marco, fatti vedere. Marco, non so se lui. È lui colpevole della trasformazione della sposo. Esatto, l'artefice di tutto. Cosa gli avete combinato stasera allo sposo? Raccontatemi un po'. Allora, inizi tu. La cosa più matta che gli avete combinato, a parte qualche strizzata di tetta, capezzoli, perché voi non la vedete, ma lui è vestito da donna, anzi, diciamo. Guarda, se è un consiglio da dargli, perché lì perché c'è un problema. Lì direi che c'è bisogno, c'è bisogno un po' di una ceretta, c'è da dirlo, ragazzi. Esatto. Però potevate organizzarvi prima, no, gli avete fatto fare proprio una brutta figura. Esatto. Era quello il loro intento. Scostumato. O scostumata. Scostumata. Quando è la data del matrimonio? 10 giugno. 10 giugno, ma mamma mia, sei pronto? Io bella. Dopo questa serata tu sei ancora convinto? Sì, per me no. No, eh? Ma no. Tuo amico tu dice di no. Di sì. Tu vai tranquillo, di sì. Sì. Di sempre di sì. Di sempre di sì, che non è peccato. Esatto. Non è peccato. Vinci. Vai, tu all'altare, ricordati, questo è stato solo un sogno. Allora, stasera. Quello di fuori è solo... non esiste. Non è mai esistita. Non è mai è solo un sogno. È solo un sogno. Volevo fare anche un applauso ai due testimoni qui vicino del nostro amico Raffaello e Marco. Ciao, bella. Un applauso. Un applauso, ragazzi. Ciao. Testimoni. È per te. For you. Yeah, baby. Perché parla inglese? Sì, è anglosassone. Ah, ho capito, è un mix. Non sente, è normale, non senti. Ti stiamo criticando, stiamo parlando male di te, tu non ci senti, giusto? Wow, una cosa fantastica. Però è più bello della compagnia. È un fighetto. Ha un fascino che le attrarrai tutte lui. Proprio la calamita. Sì? Sì. Allora stasera ha cucato solo lui, ragazzi, esatto. Voi niente. No, noi guardiamo. Voi guardate lui. Esatto. Ed è giusto. Mi sembra anche normale, no? Come cosa? Ah, non lo so. Voi fate una donna, quindi. Voi fate da accompagnatrici? Esatto. Soprattutto lo sposo barra sposa. Vabbè, stasera è una sposa, non è uno sposo. Giusto, che bello. Anche solo te, ti stai un delle firme, mezzo, che dai. Dopo te le firmo, c'ha le tette tutte firmate. Tutte firmate. Meraviglioso. Ma fantastico, ma avete già cantato, ragazzi? No, dobbiamo andare a cantare. Cosa canterete? Fatemi sentire. Qualcosa di Tiziano Ferro, dai, così. Tipo, cantatemi il ritornello, vi voglio sentire. Nere, che non c'è tempo, non c'è spazio. Ma nessuno capirà. Si stanno riscaldando la voce. Ottimo, basta. Ottimo, sono carichi, dai. Allora vi lascio andare a cantare, dai. Così grazie mille, vi divertite. Grazie a voi. È uno spettacolo. Bello, che prima volta che lo faccio, meraviglioso. Mi fa piacere, allora. Grazie. Vi auguro un buon proseguimento, ragazzi. Buona serata. Ciao. Ciao.